Serpentario a José Bové. Strisci a ridosso del fosso, come cobra zebrato, con gli occhiali da sole, coi sonagli dei bait, assottigliata nei filtri della rete, con gli arti pendattili del pirata telematico, del tutto scomparsa allo sfondo della tela, nelle radiazioni termiche del pittore metafisico, e lasci di sasso la stella rossa fra Capricorno e Scorpione e i Sagittari d'involo, ridotti all'osso e alla pacca, sulla spalla e la cervice del bombardiere, precipitato sulla puleggia del tuo condilo occipitale, femminile cerniera che chiude il solco del dente, del crotalo canilicolato, segreto digerente di un veleno esfoliante che picchietta la ghiandola sul pelo incarnato nel tuo segreto, placcato da squame nella tua formula d'incognita di grado secondo che fa scudo al tuo cranio, al tuo fortilizio corneo e cutaneo, dalla fessura di pietra calcarea e granitica in cui due atri pulsano soltanto di un cuore e l'aria trapassa da un solo ventricolo. Biscia che sguisci dal viluppo infuocato del rovo del Sinai, come la verga nerboruta sul groppone di Giannes, fuori dallo scempio del fariseo presente nel tempio. Risorgi dalla cribbia dello scriba, ad esempio, contorta nella catarsi del muco, dell'adipe e il sebo, con la testa pestata dal piede puzzolente di quella porca di Eva, sotto la foglia di fico e dal taschino villoso in mezzo alle gambe di Adamo, azzannando sulle carni di ratti e d'insetti, additando all'indice Mibtel come ultimo il verme della mela di Guglielmo Tell, nel pollice di Down Jones i 26 sandwich di McDonald, negli occhi dei Nikkei, della borsa in corsa sui raccordi anulari verso la fattoria globale coltivata tutta a pera d'eroina filosofica dai maiali di Orwell. Mordila tu alla carotide, la carota macrobiotica sottoposta ai test, alla giugulare del gran tutore dell'antitrust, e sbuca dallo stretto della manica come l'asso di Blair, come missile intelligente dall'ano spanato di Bush, sul collo del tallone di Achille, sul muscolo del braccio tennistico di Patroclo, per un'altra guerra di Troia, per un'altra coppa di Wimbledon, fra le nebbie di Avalon. Rettile irascibile della vendetta di Ettore, nel pianto addirotto di un Priamo sfrattato a sangue freddo dalle truppe miliziane del terrore del Termidoro, col siero antivipera, con la baionetta ovovivipara infanticida, sul catorcio carrozzato dell'era corrente, sui carri bestiame delle vacche magre, sulle tame, bitume e catrame dell'abitudine, pitone che scivoli dal ritto pennone della parata del nazionalista ed evolta bandiera di Dolce Gabbana in sfilata col catto mafioso, afferra gli stretta la tenia degli interstizi nelle zaffate di tedio della carogna della sua cagna marcita nell'ignominia, la tarma mezzana dei costumi rosicati della battona e battitrice libera su sgranato rosario come serpente che si fronteggia nell'aula di Ippocrate sotto la pira e la pirotecnia accese all'eretico. Aspide nella sottana della regina Cleopatra, nella collera di Ottaviano, per mano di suocera e nuora, e tradimento di Iago e Logo nel sito, in lotta fra i titani e gli dèi del mio Tartaro, e grosso salgemma, e canchero e cancro del tropico, agnello d'oro e capro espiatorio dell'entropia della maledizione. Tremarella temibile da febbre da fieno, repellente ruina e sterco dell'orco mangia bambini. Nella sua fazione all'odio, nell'addio all'idioma, nella fasia della parola, nell'arco della parabola, per la scossa elettrica della sommossa rivoluzionaria della miccia malaticcia, dietro lo spartivento e il sismografo, prolifica in un retilario di vetro la perversità del mio verso.